Siamo in collegamento con Sabrina di Vasta Alternanza Bologna e siamo in collegamento per parlare della manifestazione che si terrà questo venerdì 30 novembre. Allora io per prima cosa ti volevo chiedere, visto che l'avete indetta voi come piattaforma che si chiama appunto Vasta Alternanza, di presentarci chi siete, ecco. Come campagna Vasta Alternanza siamo nati un anno fa in una assemblea rappresentativa di alcune città italiane che dall'inizio del nostro percorso compongono l'assemblea. Adesso siamo arrivati ad essere 12 città in Italia. Siamo nati perché? Perché abbiamo cominciato a riconoscere come la scuola pubblica da qualche decennio a questa parte abbia smarrito la sua funzione primaria, che è quella dell'universalità della formazione e della trasmissione della cultura. In parole povere, poter permettere a tutti, indipendentemente dalla condizione geografica, dalla provenienza geografica, dalla condizione sociale, di fruire di un'istruzione di qualità. Siamo nati perché vedevamo un totale appiattimento all'interno della scuola, non vedevamo più nessuno alzare la testa, e nel momento in cui è stata approvata la buona scuola di Renzi abbiamo deciso di reagire. Abbiamo deciso di reagire perché per noi la buona scuola si inserisce in un solco politico che viene creato da Maastricht in poi, che è quello del piegare la scuola pubblica alle richieste del mercato del lavoro. Abbiamo riconosciuto, quando siamo nati un anno fa, nell'alternanza scuola-lavoro, la contraddizione maggiore che ci veniva posta davanti, perché veniva mutato il nostro ruolo. Da studenti che vanno a scuola per ricevere un'istruzione di qualità, diventavamo un bacino di manodopera gratuito. Quindi è così che siamo nati. Poi il percorso verso venerdì è stato lungo, lo immaginavamo già un anno fa. Adesso siamo arrivati alla concretezza di aver voluto buttare il cuore oltre l'ostacolo e chiamare una data nazionale. Visto che tu hai parlato appunto della buona scuola di Renzi, ma ora state andando a manifestare contro un altro governo, diciamo, quindi qual è stato l'atteggiamento di questo governo invece? Cioè, se secondo voi è cambiato qualcosa o no? Certo, qualcosa è cambiato, ma noi non ci aspettavamo niente. Nel senso, è vero che il ministro Bussetti ha dato una riduzione sostanziale al monte ore di alternanza scuola-lavoro. Sarebbe da folli dire che non è vero, che non è mai successo, ma d'altro canto Bussetti ha fatto una mossa molto... ha fatto un colpo laterale. Da un lato diminuiva l'alternanza scuola-lavoro, dall'altro aumentava l'autonomia scolastica regionale, quindi aumentava il potere decisionale delle regioni in materia di istruzione. E sull'alternanza scuola-lavoro questo ha un riflesso molto, molto attinente. Lo abbiamo visto ad esempio dalla risposta di Elena Donazzan, che è l'assessore all'istruzione del Veneto, che diceva che l'alternanza scuola-lavoro è qualcosa di utile, e con l'autonomia scolastica regionale in Veneto verranno mantenuti gli orari di quella che era la buona scuola da principio. Quindi se Bussetti da un lato dà un contentino, dall'altro ci attacca con la regionalizzazione che va anche a incrementare le disuguaglianze, che sono quelle tra poli d'eccellenza, scuole parcheggio, tra scuole di serie A, scuole di serie B, tra nord e sud Italia, creando un'Italia a due velocità. Anzi, l'Italia a due velocità c'era già, lui la potenzierà. Tra l'altro un'altra cosa riguardo alla riduzione dell'alternanza è che poi, insomma, sono state ridotte le ore, quindi sono stati tagliati i fondi, e questi fondi non sono stati reinseriti da qualche altra parte. Esatto. Per l'istruzione. Anzi, cioè, lo vediamo con i tagli all'istruzione nel decreto fiscale. Sono 14 milioni di euro tagliati alla scuola pubblica. La direzione di questo governo, l'idea di scuola di questo governo non cambia, è sempre un'idea di scuola neoliberista, è sempre un'idea di scuola piegata alle logiche di mercato, all'autoimprenditorialità, è sempre la scuola delle competenze e non delle conoscenze, e a noi tutto questo non va più bene. Forse l'unica cosa in cui questo governo ha cambiato è stato nell'investire in quella che a Salvini piace proprio tanto, che è la sicurezza. Esatto, ma che cos'è la sicurezza? Ci vediamo davanti il decreto scuole sicure, no? Sono 2,5 milioni investiti in repressione, controllo sociale, polizia, telecamere nelle scuole, quando dall'altro lato ne vengono tagliati 14 milioni e non vengono investiti fondi da 20 anni nell'edilizia scolastica. In Italia abbiamo il 46,9% degli edifici scolastici che ha bisogno di manutenzione urgente. Quindi a Salvini noi rispondiamo: che cos'è la sicurezza? Per noi le scuole sicure sono quelle che non ci cadono in testa. Se per lui sono quelle della polizia, beh, abbiamo un'idea molto diversa di sicurezza. E a scendere in piazza il 30 non sarete solo solo voi, ma no, sarete... non saremo soli, perché abbiamo deciso di costruire questa data non soltanto come studenti. Parte da noi, ma noi non siamo i soli a vivere la devastazione che sta venendo fatta della scuola pubblica da 20 anni a questa parte. Saremo in piazza con i lavoratori dell'istruzione, saremo in piazza con i professori, saremo in piazza con il personale ATA, saremo in piazza con l'Unione Sindacale di Base, che ha indetto sciopero, saremo in piazza con realtà universitarie, saremo in piazza con forze politiche come Potere al Popolo e chi come noi rivendica un'istruzione pubblica, democratica e di qualità, lontana dalle logiche di competitività, dalle logiche di mercato e dalle logiche dell'autoimprenditorialità. Ti volevo chiedere un'ultima cosa, ovvero sì, proprio a livello organizzativo, come vi muoverete per esempio da Bologna per andare a Roma, se ci sono dei pullman, e poi come si strutturerà la manifestazione? Alla prima domanda rispondo dicendo che ci sono pullman da ogni territorio in Italia. Se andate sulla nostra pagina Facebook, che è la campagna Bassa Alternanza, trovate un elenco di tutti i contatti per ogni città da chiamare e quindi per poter prenotare il pullman. Sarà un presidio sotto il MIUR e vediamo se si evolverà in qualcos'altro. Ora come ora io non te ne do la certezza. Per ora è un presidio. Ti ringrazio molto e ti saluto. Grazie a voi. Buona giornata.